Il terzo anello, ad alta voce, Guerra e pace, di Lev Tolstoi. La morte di Petya e la tremenda sofferenza che questa provoca nella madre spinge Natasha, per contrasto, a uscire dal suo dolore per la morte di Andrei e ad occuparsi concretamente della madre. E così, nel mettere in pratica il proprio amore nei confronti della madre, che ha bisogno di lei, Natasha in qualche modo ritrova la sua vitalità, il suo amore, la sua generosità. E poi abbiamo visto nell'ultima lettura la morte di Kutuzov, che arriva proprio nel momento in cui l'evolversi della guerra gli fa capire d'essere ormai un uomo superato dagli eventi. E abbiamo visto anche la progressiva ripresa della vita quotidiana da parte di Pierre, il quale, recatosi a trovare la principessina Maria, trasale quando si rende conto che quella che aveva scambiato per una dama di compagnia non è altro che Natasha, trasformata e invecchiata, ma che Pierre sente di amare ancora. E forse qualcosa all'incontro con Pierre si sveglia anche nell'animo di Natasha. Pierre per un pezzo non poté addormentarsi quella notte. Passeggiava su e giù per la camera, ora aggrottando le sopracciglia, nell'internarsi in un problema difficile, ora a un tratto stringendosi nelle spalle con un brivido, ora sorridendo felice. Pensava al principe Andrei, a Natasha, al loro amore, e ora si ingelosiva del passato di lei, ora si rimproverava, ora se lo perdonava. Erano già le 6 del mattino ed egli passeggiava sempre per la stanza. Che fare? E se non se ne può fare a meno, che fare? Vuol dire che deve essere così, disse fra sé, e spogliatosi in fretta si mise a letto, felice e commosso, ma senza dubbi né incertezze. Per quanto strana, per quanto inverosimile possa parere questa felicità, bisogna fare di tutto per diventare marito e moglie, disse fra sé. Anche il giorno seguente Pierre andò a pranzo dalla principessina Maria. Passando per le strade, in mezzo alle case incendiate, ammirava la bellezza di quelle rovine. I tubi delle stufe, le mura smantellate, che ricordavano pittorescamente il Reno e il Colosseo, si stendevano, nascondendosi a vicenda, per i quartieri circondati di rovine. Egli incontrava vetturini, uomini a cavallo, falegnami, che piallavano delle tavole, venditrici e bottegai, e tutti avevano dei visi allegri e raggianti, guardando Pierre, e pareva che dicessero: «Ah, eccolo! Vediamo che cosa nascerà da tutto questo». Nell'entrare in casa della principessina Maria, a Pierre venne il dubbio se fosse vero che il giorno innanzi era stato lì e che aveva veduto Natasha e parlato con lei. «Forse me lo sono immaginato. Forse entrerò e non vedrò nessuno». Ma non era ancora entrato che già con tutto l'essere suo, sentendosi come istantaneamente privato della sua libertà, avvertì la presenza di lei. Ella aveva lo stesso vestito nero a pieghe molli ed era pettinata come il giorno innanzi, ma era assolutamente un'altra. Se fosse stata così il giorno innanzi, quando egli era entrato nella stanza, non avrebbe potuto neppure per un istante non riconoscerla. Era come egli l'aveva conosciuta quasi bambina e poi da fidanzata del principe Andrei. Una luce lieta e interrogativa brillava nei suoi occhi. Sul suo viso c'era un'espressione affettuosa e stranamente maliziosa. Pierre pranzò con loro e sarebbe rimasto tutta la sera, ma la principessina Maria andava al vespro e Pierre uscì con loro. Il giorno seguente Pierre venne presto, pranzò con loro e rimase tutta la sera. Sebbene la principessina Maria e Natasha fossero evidentemente liete della sua visita, sebbene tutto l'interesse della vita di Pierre fosse ora concentrato in quella casa, verso sera essi avevano già detto tutto e la conversazione andava continuamente da un soggetto insignificante ad un altro e spesso si interrompeva. Pierre rimase così tardi quella sera che la principessina Maria e Natasha si guardavano fra loro, aspettando indubbiamente che se ne andasse. Pierre lo vedeva e non riusciva ad andare via. Si sentiva impacciato, a disagio, ma continuava a stare lì, perché non poteva alzarsi e andarsene. Natasha gli diede la mano ed uscì dalla stanza. La principessina Maria, al contrario, si gettò su di una poltrona e col suo radioso sguardo profondo fissò Pierre severamente e attentamente. La sua stanchezza, che poco prima era evidente, era adesso interamente passata. Ella mandò un sospiro penoso e prolungato, come per prepararsi ad un lungo discorso. Tutta la confusione e l'imbarazzo di Pierre sparirono in un baleno appena Natasha fu uscita e si mutarono in una vivacità agitata. Rapidamente egli accostò la sua poltrona a quella della principessina Maria. «Sì, sì, volevo appunto dirvelo», disse, rispondendo allo sguardo di lei come a delle parole. «Aiutatemi, principessina, che debbo fare? Posso sperare? Ascoltatemi, io so tutto. Io so che non la valgo. So che ora è impossibile parlare di queste cose. Ecco», proseguì, facendo uno sforzo evidente su se stesso per parlare in modo coerente. «Io non so da quando l'amo, ma io ho amato lei, lei sola, in tutta la mia vita, e l'amo in tal modo che non posso immaginarmi la vita senza di lei. Ditemi, che debbo fare?» «Cara principessina», disse egli dopo un breve silenzio, toccandole il braccio, perché ella non rispondeva. «Penso a quello che m'avete detto», rispose la principessina Maria. «E vi dirò, parlarle adesso non si può. Affidate la cosa a me. Io so...» Pierre guardò negli occhi la principessina Maria. «Io so che lei vi ama. Vi amerà», si corresse la principessina. Aveva appena dette queste parole che Pierre diede un balzo e prese per la mano la principessina, tutto sconvolto in viso. «Perché lo credete? Credete dunque che io possa sperare? Lo credete?» «Sì, lo credo», disse sorridendo la principessina Maria. «Scrivete ai genitori e date l'incarico a me. Io le parlerò quando sarà possibile. È una cosa che desidero anch'io, e il cuore mi dice che accadrà. Voi andate a Pietroburgo, è meglio così, e io vi scriverò», disse ella. «A Pietroburgo? Devo andare?» va bene, ci andrò. Ma domani posso venire da voi?» E il giorno seguente Pierre venne a congedarsi. Natasha era meno animata che non i giorni precedenti, ma Pierre, guardandola qualche volta negli occhi, sentiva quel giorno che non c'era più né lui né lei, ma un unico sentimento di felicità. Nell'anima di Pierre ora non accadeva nulla di simile a ciò che v'era accaduto in analoghe circostanze al tempo del suo fidanzamento con Hélène. Una lieta, inattesa follia, della quale Pierre si credeva incapace, l'aveva preso tutto. Tutto il senso della vita, non per lui solo, ma per tutto il mondo, gli pareva riassumersi soltanto nel suo amore e nella possibilità di essere amato da lei. Spesso faceva meravigliare la gente che incontrava con i suoi sguardi e i suoi sorrisi beati, che esprimevano un segreto consenso. Ma quando capiva che la gente poteva non sapere della sua felicità, la compativa con tutta l'anima e provava il desiderio di spiegare a tutti che ciò che li occupava era un'assoluta sciocchezza e insulsaggine che non meritava alcuna attenzione. Esaminando gli affari e le carte della sua defunta moglie, egli non provava per la memoria di lei altri sentimenti oltre al rimpianto che essa non avesse conosciuto la felicità che ora conosceva lui. Il principe Vassili, specialmente fiero adesso per aver ricevuto un nuovo posto e una placca, gli pareva un buon vecchio che gli ispirava compassione e lo commuoveva. Spesso Pierre si ricordò in seguito di quel tempo di beata follia. La follia di Pierre consisteva in questo, che per amare gli uomini non aspettava come prima quei motivi personali che chiamava qualità individuali, ma l'amore gli riempiva il cuore. E amando gli uomini senza motivo, egli trovava gli indubitabili motivi per i quali meritavano di essere amati. Da quella prima sera in cui Natasha, dopo che Pierre fu andato via, disse alla principessina Maria, con un sorriso allegro e scherzoso, che Pierre, col soprabito e con quei capelli tagliati, era come, ma sì, era come se uscisse dal bagno, da quel momento, qualcosa di nascosto, che era ignoto perfino a lei stessa, ma invincibile, si svegliò nell'anima sua. Tutto il viso, l'incedere, lo sguardo, la voce, tutto ad un tratto s'era cambiato in lei. Una forza di vivere inaspettata per lei stessa, nuove speranze di felicità erano salite alla superficie e chiedevano di essere soddisfatte. Da quella prima sera Natasha parve avere dimenticato tutto ciò che le era accaduto. Non si lamentò più del suo stato, non disse più una parola del passato e non ebbe più timore di fare progetti per l'avvenire. Parlava poco di Pierre, ma quando la principessina Maria lo rammentava, si riaccendeva nei suoi occhi una luce che da un pezzo era spenta e le sue labbra si increspavano in uno strano sorriso. Il cambiamento avvenuto in Natascia dapprima sorprese la principessina Maria, ma quando ella ne capì il significato, questo cambiamento la rattristò. «Possibile che amasse così poco mio fratello da poterlo dimenticare tanto presto», pensava la principessina Maria quando era sola e rifletteva al cambiamento avvenuto. Ma quando era con Natascia non si adirava contro di lei e non la rimproverava. Quella forza di vita che si era risvegliata e avvolgeva Natascia era talmente incoercibile, talmente inaspettata per lei stessa, che la principessina Maria, in presenza di Natascia, sentiva di non avere il diritto di rimproverarla nemmeno dentro di sé. Natascia si era data tutta a quel nuovo sentimento con tanta pienezza e sincerità che non tentava neppure di nascondere che adesso il suo umore non era triste, ma gioioso e allegro. Quando, dopo la spiegazione di quella notte con Pierre, la principessina Maria ritornò in camera sua, a Natascia, che le andò incontro sulla soglia, riferì con un viso triste e un po' severo tutto ciò che le aveva detto Pierre. Udendo che egli si preparava ad andare a Pietroburgo, Natascia fu sorpresa. «A Pietroburgo!» ripeté, come se non avesse capito. Ma osservando l'espressione triste che aveva la principessina Maria, indovinò la cagione della sua tristezza e ad un tratto cominciò a piangere. «Marie», disse, «dimmi tu che cosa devo fare. Io ho paura d'essere cattiva. Quello che tu mi dirai io lo farò. Dimmi tu, lo ami?» «Sì», mormorò Natascia. «E allora perché piangi? Io sono felice per te», disse la principessina Maria, che per quelle lacrime aveva già perdonato interamente la gioia di Natascia. Erano passati 7 anni. Il tempestoso mare della storia d'Europa era rientrato nelle sue sponde. Sembrava acquietato, ma le forze misteriose che muovono l'umanità seguitavano la loro azione. Sebbene la superficie di questo mare della storia sembrasse immobile, l'umanità si muoveva altrettanto ininterrottamente come si muove il tempo. Si formavano e si scomponevano diversi gruppi di conglomerati umani. Si preparavano le cause della formazione e della disgregazione degli stati, degli spostamenti dei popoli. Il matrimonio di Natascia, che nel 1813 aveva sposato Bezukhov, fu l'ultimo lieto avvenimento nella vecchia famiglia dei Rostov. In questo stesso anno il conte Ilya Andreevich morì e, come sempre accade, con la sua morte la famiglia che esisteva un tempo si disperse. Gli avvenimenti dell'ultimo anno, l'incendio di Mosca e la fuga dalla città, la morte del principe Andrei e la disperazione di Natascia, la morte di Petia, il dolore della contessa, tutto ciò era caduto sul capo del vecchio conte come un colpo dopo l'altro. Pareva che egli non comprendesse e non si sentisse la forza di comprendere la gravità di tutte queste vicende e, piegando moralmente il suo vecchio capo, sembrava aspettare e chiedere nuovi colpi che lo finissero. Ora aveva l'aria spaventata e smarrita, ora era straordinariamente animato e intraprendente. Il matrimonio di Natascia lo occupò per un momento col suo lato esterno. Ordinava i pranzi, le cene e voleva evidentemente parere allegro, ma la sua allegria non era comunicativa come prima e, al contrario, faceva pena a quelli che lo conoscevano e che gli volevano bene. Dopo la partenza di Pierre con la moglie, egli si fece cheto cheto e cominciò a lamentarsi per la malinconia. Di lì ad alcuni giorni si ammalò e si mise a letto. Fin dai primi giorni della sua malattia, sebbene i medici lo confortassero, capì che non si sarebbe rialzato. La contessa passò 15 giorni su una poltrona, al suo capezzale, senza mai spogliarsi. Ogni volta che essa gli porgeva una medicina, egli, con un singhiozzo, le baciava la mano in silenzio. L'ultimo giorno, piangendo, chiese perdono alla moglie e al figlio assente per aver rovinato il patrimonio familiare, la colpa principale di cui si rimproverasse. Dopo essersi comunicato e aver ricevuto l'olio santo, morì dolcemente. E il giorno dopo, una folla di conoscenti, venuti per rendere gli estremi doveri al defunto, empì l'appartamento d'affitto dei Rostov. Tutti questi conoscenti, che tante volte avevano pranzato e ballato in casa sua, e tante volte avevano riso di lui, Ora tutti, con un medesimo sentimento di interno rimprovero e di commozione, come per giustificarsi davanti a qualcuno, dicevano: «Si può dire quel che si vuole, ma era un uomo eccellente. Ora non si incontrano più uomini simili. E chi poi non ha le sue debolezze?» Proprio nel momento in cui gli affari del conte erano così dissestati che era impossibile figurarsi come sarebbero finite le cose se andava avanti così per un anno ancora, egli era morto inaspettatamente. Nicolai era con le truppe russe a Parigi quando gli giunse la notizia della morte del padre. Subito diede le dimissioni e, senza aspettare che fossero accettate, ottenne un permesso e partì per Mosca. La situazione finanziaria, dopo un mese dalla morte del conte, s'era definita interamente, meravigliando tutti per l'enorme somma che rappresentavano i piccoli debiti di cui nessuno sospettava neppure l'esistenza. I debiti si elevavano al doppio del patrimonio. Parenti ed amici consigliavano a Nicolai di rifiutare l'eredità, ma Nicolai nel rifiuto dell'eredità vedeva un rimprovero verso la memoria del padre che era sacra per lui e perciò non volle sentir parlare di rifiuto ed accettò l'eredità, impegnandosi a pagare i debiti. I creditori, che per tanto tempo erano stati zitti, tenuti tranquilli durante la vita del conte da quella indefinibile ma potente influenza che aveva su di loro la bontà esuberante di lui, ad un tratto presero tutte le vie legali. Non davano a Nicolai né tregua né riposo, e quelli che, a quanto pare, compativano il vecchio, che era la causa delle loro perdite, se perdite erano, ora si gettavano senza pietà sul giovane erede che evidentemente non aveva nessuna colpa dinanzi a loro e che volontariamente s'era comunque impegnato a pagarli. Nessuna delle combinazioni escogitate da Nicolai riuscì. La tenuta fu venduta all'asta a metà prezzo, eppure una metà dei debiti rimase insoddisfatta. Nicolai accettò 30.000 rubli offertigli in prestito dal cognato Bezukhov per pagare quella parte dei debiti che riconosceva come veri debiti pecuniari, e per non essere cacciato in prigione per gli altri debiti, cosa di cui lo minacciavano i creditori, rientrò in servizio. Tornare nell'esercito, dove alla prima vacanza egli doveva essere nominato comandante di reggimento, era impossibile, perché la madre adesso si era attaccata a quel figlio come all'ultima attrattiva che le porgesse la vita, e perciò, malgrado la sua poca voglia di restare a Mosca, in un cerchio di persone che lo conoscevano prima, malgrado la sua antipatia per il servizio civile, accettò a Mosca un posto nell'amministrazione e, togliendosi l'amata uniforme, si stabilì con la madre e Sonia in un piccolo appartamento. Natascia e Pierre vivevano allora a Pietroburgo, senza avere un'idea chiara della situazione di Nicolai. Nicolai, prendendo a prestito il denaro dal cognato, aveva cercato di nascondergli il suo stato miserevole. La posizione di Nicolai era particolarmente triste perché, coi suoi 1.200 rubli di stipendio, non soltanto doveva mantenere sé, Sonia e la madre, ma doveva mantenere la madre in modo che ella non si accorgesse della loro povertà. La contessa non poteva concepire la vita senza quel lusso al quale era avvezza fin dall'infanzia e continuamente, senza capire come ciò fosse difficile per il figlio, pretendeva ora una carrozza, che non avevano, per mandare a prendere un'amica, ora dei cibi costosi per sé e del vino per il figlio, ora denari per fare un regalo sorpresa a Natascia, a Sonia e allo stesso Nicolai. Sonia teneva il governo della casa, assisteva la zia, le leggeva ad alta voce, sopportava i suoi capricci e la sua celata ostilità ed aiutava Nicolai a nascondere alla vecchia contessa la posizione di indigenza nella quale si trovavano. Nicolai si sentiva in debito di riconoscenza verso Sonia per tutto ciò che essa faceva per sua madre e ammirava la pazienza e la devozione di lei, ma cercava di allontanarsene. Dentro di sé quasi le rimproverava d'essere troppo perfetta e che non ci fosse nulla da rinfacciarle. Ella aveva tutto ciò per cui si apprezzano le persone, ma difettava di ciò che avrebbe potuto indurre lui ad amarla. Ed egli sentiva che, quanto più l'apprezzava, tanto meno l'amava. L'aveva presa in parola quando, con quella lettera, ella gli aveva reso la sua libertà, e ora si comportava con lei come se tutto ciò che c'era stato fra loro fosse da lungo tempo dimenticato e in nessun caso potesse tornare. La posizione di Nicolai si faceva sempre peggiore. L'idea di poter fare economie sul suo stipendio si dimostrò un sogno. Non soltanto non faceva economie, ma contraeva piccoli debiti per soddisfare alle esigenze della madre, e non gli si presentava nessuna via d'uscita da quella posizione. L'idea di sposare una ricca ereditiera, come gli proponevano i parenti, gli era antipatica. L'altra via d'uscita da quella sua posizione, la morte della madre, non gli veniva mai in mente. Non desiderava nulla, Non sperava nulla e nel profondo dell'anima provava un cupo e austero piacere nel sopportare virilmente la propria sorte. Si sforzava di sfuggire alle sue antiche conoscenze, con le loro commiserazioni e profferte di un aiuto offensivo. Sfuggiva ogni distrazione e ogni divertimento, e anche in casa non faceva nulla, tranne che disporre le carte sulla tavola con la madre, passeggiare in silenzio su e giù per la camera e fumare una pipa dopo l'altra. Pareva che si sforzasse di coltivare in sé quell'umore cupo nel quale soltanto si sentiva capace di sopportare la situazione. Guerra e pace di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi, musicata da Paolo Terni, a cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it.